Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io ho sempre immaginato questo programma come una mappa e ognuno dei racconti arrivati come una minuscola presa di coscienza, un modo per osservare la propria vita da fuori, anche solo per 5 minuti. Il tempo di leggere una pagina e di districarsi in quella mappa. È arrivato adesso questo messaggio. Alberto scrive: ho 17 anni, ho terminato il terzo anno di liceo linguistico. Fin da piccolo mi piace molto scrivere, meno leggere. Ah, Alberto, se lo dici tu. Già dalla mia scelta formativa si possono capire le mie attitudini, le mie passioni, eccetera, eccetera. Ma dopo aver assistito al live di ieri sera, posso affermare con certezza che le parole arrivano là dove i numeri non giungeranno mai. Grazie Matteo. Questo è un messaggio più che a me, direi ai suoi genitori che vorrebbero fargli fare ingegneria all'università, invece lui si iscriverà a lettere o a scienza della comunicazione. Quello dipende un po' da quando. No, scienza della comunicazione magari no, lettere, facoltà linguistiche. Tanto comunque il lavoro non lo si trova lo stesso, come dice Tiziano Bonini. Io devo dire però che per fortuna c'è sempre una notte dopo ogni avvenimento. Fortunatamente c'è sempre una notte che ci salva da noi stessi e dall'idea che abbiamo di noi stessi. Qualsiasi cosa accada durante il giorno, durante la sera, poi c'è la notte, ci dormi sopra e quando ti risvegli la mattina è tutto normale, è come se non fosse successo niente. Perché altrimenti rischiavamo di avvolgerci su noi stessi come un tappeto che viene fatto su, viene caricato in spalla e portato via. Abbiamo raggiunto dei livelli ieri tra le 500 persone in sala e abbiamo scoperto i quasi 2000 che hanno seguito con lo streaming live dal sito di Radio 24 la serata. Alla fine vi dico solo che io salutavo i bambini toccandoli sulla testa, manco fossi Gesù Cristo. Un imbecille assoluto, un imbecille totale. Fortunatamente me ne sono accorto e ho chiesto scusa alla mamma quando la bimba se n'è andata. E poi addirittura, perdonatemi, però è giusto pigliarsi un po' per il culo, perché altrimenti siamo qui a fare i seri. Sul profilo Facebook del programma Voi Siete Qui Radio 24, qualcuno che si firma come La Trama Viola Fotografia, credo che sia un negozio di fotografia, un'associazione di fotografia. Questa è la scritta. Poi abbassare per piacere la base, Paolino. Matteo Caccia rappresenta la conferma che un'Italia migliore esiste. Allora, La Trama Viola Fotografia, io ti ringrazio davvero tanto, però insomma a due persone tra l'altro piace questo elemento. Ragazzi, dormiteci sopra anche voi e poi domani è tutto normale e torna tutto come prima. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Se avete voglia di partecipare al programma di oggi, oggi facciamo una sorta di veloce volo sulla serata di ieri sera. Non lo facciamo semplicemente per parlare della serata di ieri sera, lo facciamo per tirare le file di questo programma che sta per chiudere la stagione e lo farà venerdì prossimo, salvo poi andare in onda anche a luglio con una sorta di meglio di, giusto Tiziano? E poi riprenderà a settembre, e quindi la cosa che facciamo oggi è rimandare, rifarvi sentire un po' quello che è successo durante l'anno attraverso le puntate, perdonatemi, i racconti che sono stati raccontati ieri sera, per rilanciare appunto la prossima stagione e continuare a raccogliere i vostri racconti a Voi Siete Qui, @radio24.it. Abbiamo preso proprio dal live di ieri quattro pezzi. Il live intero è già in podcast, e lo scaricate dal sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. Ci potete anche accedere dal profilo Facebook, che è sempre quello. Voi Siete Qui, Radio 24. Adesso c'è il podcast audio solo, ma a breve ci sarà anche tutto il podcast video, quindi se avete voglia proprio di farmi del male per 1:20 potete vedervi tutto il live. Però dicevo, abbiamo scelto quattro stralci da ieri, li abbiamo scelti a caso ovviamente come sempre facciamo, e quindi comincerei con il primo. Il primo pezzo era poi il primo racconto che abbiamo letto, e racconta di quando anni fa un ragazzino di quasi 10 anni fece 13 al totocalcio. A quei tempi noi non ce la passavamo bene. Eravamo sotto sfratto e i miei avevano fatto un passo troppo lungo: comprare casa. Una sera il babbo era tornato con una busta. Aveva ritirato dalla banca tutti i risparmi della famiglia. 8 milioni. Beh, francamente pochini se ti sei impegnato per una casa da un centinaio. Roba da mutuo da tramandare fino alla quarta generazione, anzi, roba che il mutuo, se non trovavi qualche soldo, manco te lo davano. E poi, in TV, arrivò Paolo Valenti con la sua giacca a scacchi e ci disse che avevamo vinto 15 milioni.

e che mi sento viva. Ed è arrivata una mail in questo momento da Giulia, che dice: l'emozione più forte di ieri è stata durante il videomessaggio di Elisa, che è l'autrice della storia che avete appena sentito. Ho sentito la sua sofferenza, ma anche la sua forza e la sua felicità ritrovata. Spero presto di voler trovare anch'io la forza emotiva per riprendermi a pieno la mia vita come una tigre, perché dice che le è stata diagnosticata una malattia. E un attimo dopo, quando si è alzata, la sorpresa di vedere che lei fosse seduta proprio dietro di me. Queste sono le piccole cose che, diciamo, a casa, in macchina, non possono accadere. Poi invece in una sera sei lì, ti piace una storia e ti accorgi che la persona che l'ha scritta era seduta dietro di te. Che sembra una vaccata, e un po' lo è, ma in realtà no. E invece al ragazzo che vuole fare lettere, scrive Giuliano: se prende ingegneria potrà sempre tornare indietro e fare lo scrittore, se prende lettere difficilmente potrà fare l'ingegnere. E questo mi sembra una massima assoluta. E parlando di scuola, vi faccio sentire l'ultimo pezzo che abbiamo scelto dal live di ieri sera. Non poteva che esserci questo pezzo, visto che tutti lo conoscevano e se lo ricordavano, perlomeno quelli che frequentano questa trasmissione. L'autore si chiama Massimo Polpo Nerriotti, era arrivato da Torino in motocicletta e il suo brano si chiamava Scagnolari. Lo confesso ora, perché solo ora, a 49 anni, trovo il coraggio. Avevo 15 anni in quei giorni, fine anni 70. È una mattina qualsiasi a scuola, Istituto Tecnico Agrario di Stato Pianezza, provincia di Torino. In classe c'è una lezione di non so cosa. Ascolto il professore in attesa dell'intervallo delle 10. Dietro di me sta seduto Scagnolari. Scagnolari pesa almeno 100 kg. Scagnolari porta occhiali dalle lenti molto spesse, culi di bicchieri. Scagnolari non ha voglia di studiare ed è ripetente. Scagnolari ha gli occhiali spessi e dalla vita non vuole seccature. Vuole dormire ad occhi aperti in classe per tutta la mattina e poi tornare a casa e riprendere a farsi gli affari suoi. Scagnolari si accontenta di poco: mangiare, fumare e guidare il suo motorino. A Scagnolari di tutto il resto non gliene frega niente. Tanto dice che se lo bocciano ancora andrà a lavorare da suo padre. Suona la campanella dell'intervallo, tutti fuori per 10 minuti. Rientro in classe e ciondolo tra i banchi. Tra pochi minuti inizia la lezione della Francheo. Scienze. La Francheo è sui 40, altera, algida, bellissima. Capelli neri cotonati come un leone, cattiva come una merda. Siamo tutti mezzi innamorati e del tutto terrorizzati da lei. È come amare il proprio boia. E già durante le due stagioni in onda su Radio 24, prima con Vendo Tutto e poi con Io Sono Qui, io cercavo di immaginare un modo per continuare a raccontare, a fare storytelling senza passare da me, cioè senza dovermi sempre immergere in quello che raccontavo. E non è stato difficile individuare quale sarebbe potuto essere il naturale proseguimento di quei programmi. Era raccontare le storie delle persone. La narrazione autobiografica è la maniera più immediata per raccontare storie. Non serve particolare fantasia, non è necessario conoscere e maneggiare tecniche di scrittura. L'esperienza personale è la maniera più semplice e immediata per raccontare una piccola storia. Aver vissuto qualcosa permette di sentire sulla propria pelle quelle sensazioni, poi di lasciarle sedimentare nel tempo, di elaborarle e magari di raccontarla ad amici, parenti o persone che quella storia la vogliono conoscere. Ecco perché la fase della scrittura è solo l'ultima di un processo che l'esperienza ha innescato e che una voce alla radio ti ha chiesto di raccontare. Quindi, una volta capito insieme a Tiziano che l'oggetto del nuovo programma sarebbero state le storie degli ascoltatori, dovevamo solo individuare il tipo di storie e il modo in cui chiederle. E inizialmente abbiamo pensato di dividerle in categorie per facilitare il lavoro di chi scriveva, quindi robe tipo amore, lavoro, amicizia, infanzia, famiglia. Poi però ci siamo detti che così facendo avremmo comunque ristretto il raggio di possibilità e che la vita è sempre più complessa di come la immaginiamo e sfugge ai tentativi di catalogarla. Quindi la richiesta finale è stata: inviateci un racconto che vi racconta. Dalla primavera del 2011 abbiamo iniziato a sollecitare tutti voi che ascoltate a scriverci un racconto di una pagina che raccontasse un episodio della vostra vita. Uno qualunque, grande o piccolo, molto recente o che affondava nel passato. Così da lasciare il più ampio spettro di possibilità, però restringendo la metodologia narrativa, cioè un episodio in una pagina. Ci sono arrivate oltre 1000 storie. Storie che è bello ed è anche complicato leggere, perché non sono solo racconti. Non sono un esercizio di stile letterario. Sono dei pezzi di vita, privata e intima, che qualcuno in qualche parte di questo paese, in un angolo della sua casa, ha deciso di scrivere. Si è seduto a una scrivania davanti al suo computer o con un portatile sulle gambe, ha preso un frammento della sua esistenza e l'ha condiviso. Quello che resta da fare a noi è selezionarle, renderle raccontabili in 45 minuti di diretta quotidiana e contattare la persona che quella storia l'ha scritta. Quindi Voi Siete Qui è una specie di Io Sono Qui 2.0. È dire, fino ad oggi vi ho raccontato la mia storia, ora raccontatemi la vostra. Ma Voi Siete Qui è soprattutto la scritta che si trova in calce alle mappe di luoghi complessi, le cartine delle metropolitane, le piante degli alberghi, dei musei. E di solito è un puntino rosso che ti dice dove ti trovi esattamente e come muoverti da lì. Ecco perché ho sempre immaginato questo programma come una mappa e ognuno dei racconti arrivati come una minuscola presa di coscienza, un modo per osservare la propria vita da fuori, anche solo per 5 minuti, il tempo di leggere una pagina e di districarsi in quella mappa. Ho sempre avuto una grande fascinazione per le mappe. Le mappe sono sistemi ordinati, hanno linee, strisce e pallini per indicare confini, strade, fiumi, città. Mi danno sicurezza, mi danno tranquillità. Ecco spiegata anche la copertina dell'ebook, perché nella mia ambiziosa aspirazione mi immagino che un programma o un libro come questo, una serata come quella di ieri anche, mettendo insieme tutti i puntini rossi di tutti quelli che ci hanno preso parte, possa essere qualcosa di più di una semplice raccolta di storie private. Possa essere una mappa di questo paese, di questa epoca e delle persone che la vivono. Che poi, vi ricordate Medat, che era il panettiere, pizzaiolo, fornaio che propose di portare focacce per tutti quelli di ieri sera? Ecco, c'era stato un problema e quindi gli avevamo dovuto dire di no perché non c'erano di fatto i mezzi logistici, igienico-sanitari, quelle questioni lì, per poter avere del cibo in sala, insomma problemi tecnici. Però a un certo punto Medat ieri è apparso in mezzo alle persone che stavo salutando prima che se ne andassero per la fine, e ha detto, comunque ho portato un regalo per la radio. Medat è un bellissimo signore alto, con la carnagione olivastra e i capelli bianchi, ed è stato fantastico perché lui è di origini egiziane, e gli ho detto, ma tu di dove sei? E lui mi ha detto, di Milano. Io no, hai ragione, intendo dire da dove vieni, dove sei nato. E vabbè, è egiziano, ma chi se ne frega di questo. E oggi mi sono ricordato che c'era questa torta che era stata messa in un frigorifero, e la torta è straordinaria. Abbiamo fatto una foto, ringrazio Medat, tutta la radio lo ringrazia, abbiamo fatto una foto che metteremo su Facebook. E la foto di oggi non poteva che essere la foto che a breve sarà disponibile sul sito di Radio 24, sulla nostra pagina e anche sul nostro profilo Facebook, che è stata la foto finale scattata ieri sera quando il fotografo è salito sul palco e noi, come dei simpatici imbecilli di una convention, io, Paolino, Tiziano, Margherita e tutti i presenti, abbiamo sollevato al grido di... a nessun grido, non abbiamo gridato niente fortunatamente, al grido di 1, 2, 3, sembrava pronti via, abbiamo alzato il puntino rosso sopra la testa. Nella foto si vede una marea di puntini rossi sulle pagine A4 stampate in bianco, e poi vabbè, il più cretino che sono io, che c'ha un puntone gigante. La cosa però, diciamo, che mi lascia tranquillo è che tutti sono quantomeno sorridenti. L'ultima volta e poi basta, poi andiamo a casa, ok? 1, 2, 3. Ecco, era esattamente questo quel momento lì. Quello, grazie Paolino, non me l'aspettavo. Come farmi sentire sempre più un imbecille. Stefano mi scrive: come ogni volta che sento quei racconti, anche ieri sera mi sono emozionato, a volte commosso, perché in quei racconti trovo sempre qualcosa che ha fatto parte della mia vita e delle mie esperienze. E questa è la chiave di tutto. Ed è la cosa che per me è stata evidente ieri sera quando ho letto le storie, quando ho visto le facce delle persone. Ed è che la storia di Eros, che racconta di un incidente gravissimo in cui perde una gamba addirittura, anche se io non ho mai perso una gamba, è la mia storia ed è la vostra. E la storia di Massimo Neriotti, che fa uno scherzo da prete a un suo compagno, che finisce male per via di quello scherzo, è la mia ed è anche la vostra. E così la storia di Elisa, che guarisce da una malattia anche se non ha mai avuto una malattia grave, è la mia ed è la vostra. E anche la storia di Simona, che lascia il suo fidanzato, all'ultimo incontro decide che odore mettere e che profumo sapere, la mia e della vostra, e così via. E anche la storia, anche se non ho mai vinto il Totocalcio, anche la storia di Alessandro, che racconta di come accade quella domenica pomeriggio negli anni 80, di che cosa accade in quella casa quando scoprono di aver vinto 15 milioni, è la mia e della vostra. È per questo che l'anno prossimo continuiamo con questo programma, e per questo che vi chiediamo per tutta l'estate, ve lo chiederemo, di continuare a inviare racconti a voi siete qui @radio24.it, perché continuiamo, perché affiniamo la nostra tecnica e cercheremo di fare un programma sempre migliore, sempre più bello, per quanto, diciamo, le nostre capacità ce lo permettano. Mi scrive peraltro anche Masha. Masha è esattamente la mamma della bambina che ieri ho salutato toccando la testa. Scusatemi, però questa roba me ne sono vergognato tutta la notte da solo nel mio letto. Baci, abbracci da Masha, Viola, eccetera eccetera. Eri molto messia mentre salutavi Viola con la mano sulla sua testa. Ti ringrazio Masha per avermelo ricordato. Prometto che non lo farò mai più. Chiunque mi veda mai più fare una roba del genere è veramente è libero di darmi un calcio in culo. 349-238-6666, oppure voi siete qui @radio24.it. Se qualcuno di voi è stato al live di ieri sera, qualcuno di voi all'ascolto, stiamo cercando di recuperare tutte le foto che sono state scattate ieri. Ringrazio Edoardo per aver pubblicato anche quel pezzo di audio che avete sentito, che in realtà è un pezzo di video, del video finale. Caricate la foto sul profilo Facebook se ce l'avete, se avete voglia. E voi siete qui @radio24.it. C'è un profilo Twitter di questo programma che è Voi Siete Qui Radio 24, e qualcuno, adesso mi sfugge il nome, ha addirittura caricato un video, se avete voglia di iscrivervi e di seguirci ci trovate anche lì. Adesso però vorrei andare via da lì, vorrei andare via dal live di ieri sera e continuare con il programma, anche perché il programma continua adesso e fino a venerdì prossimo e poi per tutto il mese di luglio con il meglio di però vorrei leggervi una cosa che so di avere, credo, già letto forse lo scorso anno, ma che è troppo giusta ed è troppo vera ed è troppo vicina alla filosofia di questo programma e al lavoro che facciamo e al modo, secondo me, che avete di ascoltare questo programma, per non rileggerla. È tratto da un libro che si chiama L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, scritto da un neurologo che si chiama Oliver Sacks, americano, che racconta casi legati appunto a delle malattie neurologiche, di amnesie, comunque cose che alla fine hanno a che fare con l'identità. Il pezzo che sto per leggervi è proprio tratto dalla 12ª storia di questo libro, che si intitola Una questione di identità, e parla di come noi siamo strettamente legati al nostro modo di raccontarci. Ognuno di noi ha una storia del proprio vissuto, un racconto interiore, la cui continuità, il cui senso, è la nostra vita. Si potrebbe dire che ognuno di noi costruisce e vive un racconto, e che questo racconto è noi stessi, la nostra identità. Se vogliamo sapere qualche cosa di un uomo, chiediamo qual è la sua storia vera, intima, poiché ciascuno di noi è una biografia, cioè una storia. Ognuno di noi è un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraverso di noi, attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni e, non ultimo, il nostro discorso, i nostri racconti orali. Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto l'uno dall'altro. Storicamente, come racconti, ognuno di noi è unico. Per essere noi stessi dobbiamo avere noi stessi, possedere, se necessario, ripossedere la storia del nostro vissuto. Dobbiamo ripetere noi stessi, nel senso etimologico del termine, rievocare il dramma interiore, cioè il racconto di noi stessi. L'uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo, per conservare la sua identità, il suo sé. Ultima lezione di Podcast for Dummies. Allora, se volete riascoltarvi il podcast del live di ieri sera, andate sulla nostra pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24. Vi si apre proprio immediatamente una foto, serata Voi Siete Qui Live, e di fianco sulla destra, dove c'è scritto Riascolta, andate su Serata Voi Siete Qui Live. Il resto invece in podcast, alla sezione podcast della radio. Per chi è di Milano, per chi avesse voglia, io tra poco, appena finisco qui, corro alla Fnac di Milano a presentare il mio ultimo libro alle 18. Altrimenti ci sentiamo domani, come al solito, alle 16, giovedì, poi venerdì e ancora tutta la settimana prossima. Poi noi non siamo più qui, però c'è un meglio di per tutto il mese di luglio. Grazie ancora a tutti quelli che fanno questo programma, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, oggi addirittura Franco Piantanida al posto di Margherita Hina, che però vuole un pezzo di torta e gliela lasceremo domani. Era in vacanza perché ieri ha lavorato credo fino alle 4 del mattino. Grazie a tutti loro. La storia di oggi era la storia che parlava della serata di ieri. Quella di domani invece è la storia di Valentina e parla della linea d'ombra. Era sera, faceva freddo e ci eravamo divisi in due gruppi per poi ricongiungerci all'interno. O almeno questa era la speranza. Non ricordo molto della discesa, eravamo in sei, eravamo a meno 200 e avevamo passato una brutta strettoia e dei pozzi. Ci siamo fermati nel punto di eventuale congiunzione e tre di noi sono andati avanti con le radio per vedere se riuscivano a sentire gli altri e a trovare la via.